Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Oggi c'è all'asilo una novità fighissima, sì, Drago, fighissima, vero. Perché all'ingresso hanno finalmente messo una lavagna enorme con su scritto, come da tradizione, buoni e cattivi. Oh, e finalmente c'è una bella riga in mezzo che divide appunto i buoni dai cattivi. Sì. E quindi bisogna che si scrivano lì i buoni e i cattivi. E questo è il primo effetto della legge introdotta dalla bambina ministra Gelmini. Sì. Però attenzione, quella lavagna non serve a rendere pubblici i giudizi sui bambini dell'asilo. Pensi sugli insegnanti. Era ora. Tu i dici? Giudizi perché sugli insegnanti. Sai, su questo ci sono delle controversie. Ah, sì, scusa, siamo sempre stati noi bambini quelli che ricevevano i giudizi, ma i voti, sì, valutazioni, sei bravo, sei si impegna, ma vabbè, è un pirla. Noi adesso bambini. La stessa cosa è giusto che succeda per gli insegnanti. Noi bambini non ho capito, saranno 20 anni che non andiamo a scuola, io e te. Magari fossero solo 20. Vabbè, università inclusa, anche meno di 20, dai. Ma io sto sempre dalla parte dei bambini, Drago, eh? Perciò brava bambina ministra Gelmini. Brava. Però c'è l'ex ministro bambino Luigi Berlinguer che ci tiene a precisare che lui la stessa cosa l'aveva proposta tipo 15 anni fa. Però tutto il paese gli si era rivoltato contro. L'Espresso l'aveva perfino disegnato in copertina con le orecchie d'asino, quindi adesso dice perché. Adesso lo stesso trattamento allora toccherà alla bambina ministra Gelmini. Orecchie d'asino. Sì, che però presto sarà anche lei una ex bambina ministra. Ah no. Come no, il governo ha la data di scadenza, come lo yogurt, ormai sì, si sa bene. Vabbè, 14. Ma tra la Gelmini e Berlinguer c'è una bella differenza. Berlinguer, scusa, lui è anche un ex bambino, oltre che ex ministro. Cioè? Ma sì, la Gelmini sarà anche ex ministra, ma resta sempre bambina. Questo non l'ho capito, perché? Ma come perché? L'hai visto Berlinguer ultimamente? No, ho solo letto l'intervista. Se guardi le foto ti rendi conto che insomma un bambino lui no. Vabbè che diciamo l'uomo è l'essere vivente che ha l'infanzia che dura più a lungo. Se ci pensi, anche visto che l'età si allunga, l'età, la vita media si allunga, quindi di conseguenza anche l'infanzia si allungherà. Però bisogna mettere una data, insomma a un certo punto Berlinguer se lo vedi. Che a una certa età quindi non si può più essere considerato. Cioè, non so, bambino. Rita Levi Montalcini, la guardia. Cioè, sembra Tutankhamon. Quindi non è una bambina. Il professor Veronesi, scusa, Drago, quello mica è un bambino. No, forse nemmeno lui. No. Quindi so, nemmeno l'ex ministro Berlinguer. Dai, dopo i 70. Scusa, non so, uno come Raimondo Vianello non è mica un bambino. Ma Raimondo Vianello è morto. È morto. E ora, bambini, ricreazione. Oh, ricreazione, lunedì, e l'unica cosa che mi piace del lunedì è la ricreazione. Quindi, perché? Drago, per favore, perché no. Si fa l'intervista? No, per quello basta, che ti piace, no? Perché basta, tanto news and talk, non va bene se fai l'intervista al bambino Albertuccia, dice certo sempre le stesse cose. Ma vabbè, ma scusa, qui dobbiamo chiedere ai bambini quello che pensano sì, o no della lavagna, almeno, no? Plurale, sempre il bambino Albertino. Ma è lui l'unico che è sempre a disposizione, deve dirci qualcosa su questa lavagna dei professori buoni e dei professori cattivi, ma conosciamo solo lui, è l'unica insegnante, è Suor Dentona. Appunto, chiederemo al bambino Alberto che cosa ne pensa di Suor Dentona. Perché no? Tu cosa ne pensi di Suor Dentona? Cosa vuoi che ne pensi? Appena può mi riempie di bastonate. Lei la voglio vedere assolutamente nell'elenco dei cattivi. Però purtroppo non abbiamo voce in capitolo. Bambino Albanberg. No, ma chi è Albanberg? Albanberg, dai, è un grande compositore. Su, mica un'offesa. No, allora stavolta mi piace. Finalmente Albanberg. Ma non sarà mica quello che ha scritto, quello che fa Ma cos'è? È la versione sinfonica della suoneria del cellulare. Ma per cortesia, dai, basta. No, comunque, Albanberg, bambino, è quello che ha scritto il Wozzeck. Wozzeck. Allora, dai. Georg Büchner. Ma basta con le divagazioni. Bambino Alberto, allora, l'hai vista la lavagna all'ingresso? Allora? Che cos'è? È la lavagna su cui vengono scritti i giudizi sui vostri insegnanti, no? I vostri genitori, anche voi bambini, avrete il compito di giudicare il lavoro degli insegnanti. È importante. I più bravi insegnanti avranno un mese in più di stipendio. Mi sembra una cosa geniale, no? Beh, era ora. Vedi, Drago, anche Albertino la pensa come me. Era ora, sì. Almeno finalmente potrò combattere contro i finocchi cotti. Ma cosa c'entrano i finocchi cotti? Puoi combattere non sulla lavagna. Voi dovete giudicare gli insegnanti. insegnanti, le signorine, le suore, suore. Contentona. Vabbè, ma io non posso recensire il catering. No. Però puoi sempre recensire Suor Dentona, no? Fatti, dai, fai una recensione di Suor Dentona. Fai, non so, una recensione tipo giornali rock. Ma no? Sì, allora va bene. Ecco, beh, così almeno la fa, no? Suor Dentona. Allora, Suor Dentona. Vabbè, Suor Dentona. Allora, Suor Dentona. Suor Dentona, no? Allora, vabbè, Suor Dentona. Detta anche Suor Dentona, Soru Dentona o Soru Dentona. Come Soru? Whisky Sour Dentona. Ma no, è che sono afasico. Ah, vabbè, ok. Comunque, Suor Dentona è una vecchia. Essendo molto anziana, il suo sound è un po' stantio. Anche il suo smell. Ma... il suo smell sonoro. Ho capito, è questo. È lo smell sonoro. È stantio. Ma vabbè, adesso. Il suo chitarrismo? Il chitarrismo sonico? Ma cosa sta dicendo? È disturbante come quello di Marilyn Manson. Ma che lingua è? Chitarrismo sonico disturbante. Vabbè, recensione rock. Sì, ma recensione rock applicata a una suora non so quanto possa andare bene. Forse vabbè, no, scusa. Però lascialo fare, vabbè. No? Appunto, è disturbante, no? Ok. Cioè, Suor Dentona disturba. Vabbè, e poi? Beh, poi è malata. Malata. Sì, perché quando parla ci mette un'enfasi, un trasporto, un'emozione eccessiva, no? E quello è indice di malattia, eh? Ma no, dai, è solo una fervente credente, ecco. Fervente, credente e bevente, eh? Bevente. E perché beve? Ma vabbè, no, dai. No, soprattutto beve dei liquori dolcissimi, una dolciazza schifosa, eh? Una cosa insopportabile, vabbè. Appiccicosi. È rock, è recensione rock. Però, che lei beva, io ci credo, eh? Perché fa una vita ben misera, eh? Tutto asilo, crocifisso e confessionale. Sì, vabbè, ma come insegnante com'è? Perché fino adesso hai detto solo delle cose che riguardano la sua sfera privata e neanche tanto carine. Anzi, che riguardano la sua sfera privata. Eh no, come insegnante non va bene. È troppo vecchia. È come fa a capire noi bambini. È vecchia eppure suora. Ma cosa vuol dire? Scusa, le suore si sono sempre occupate di bambini. Sì, non è che... però no, personalmente non ne hanno mai avuti. Almeno ufficialmente. Ma Alberto, dai, cosa dici? Cosa allora? Dici? Vabbè, comunque, come insegnante, non va bene. Perché questa qui è una. È una tipa da ceci sotto le ginocchia. No, dai. E da bastonate sulle dita. Sì, però parla piano che se ti sente poi. No, mi sente, questa qui è una capò, eh! Piano! È una guzzina tremenda! Cioè, è una specie di Santa Inquisizione qui, eh! Vabbè. È una guardiana di Gulag! Una strega maledetta! E comunque confermo tutto quello che ha detto il bambino Alberto, eh! Occio Drago! Cosa? Aia! Vedi? E ora, bambini, e tutti a casa! Che palle, K! Ma siamo ancora qui impalati ad aspettare che le macchine si fermino, ma... E allora? E allora? Non ce la faccio più, ma è possibile? Non ci vengono mai a prendere e quando dobbiamo uscire? Le strisce pedonali dove sono? Abbiamo chiesto anche al comune, nessuno le ha fatte. Basta! Basta! Ma cosa basta? Continui a lamentarti per sta cosa di attraversare. Cerca di prenderla con filosofia. Con filosofia? Ma è una chiara metafora questa del traffico inattraversabile. Una metafora che noi non possiamo fare niente, che siamo, come dire, no, impotenti. Vuol dire che devi invece stare fermo, devi avere un atteggiamento zen, stare fermo e guardare intorno a te le cose che succedono. Poi succederà qualcosa che insomma che ti aiuta a attraversare. No, succedono sempre le stesse cose. Il proverbio cinese dice: siediti sulla riva del fiume e prima o poi vedrai il cadavere del tuo nemico passare davanti a te. È così, no? E quindi questo è un fiume di macchine. Bravo. E quindi fra un po' vedremo il cadavere del nostro nemico. No, fra un po' vediamo il tuo di cadavere, perché ti butto in mezzo e ti faccio schiacciare dal primo che passa. Domani e mandateci i vostri buoni e cattivi a chiedoasilo@radio24.it. Chiedo asilo.